4D. Ascolta e trasforma. Non vado a casa. Non andiamo a casa. Non vado in discoteca. Non andiamo in discoteca. Non vado via. Non andiamo via. A che ora vai a scuola? A che ora vanno a scuola? Perché vai via? Perché andate via? Quando vai in vacanza? Quando andate in vacanza?